Savonarola, il frate che strutturò Firenze. Prose scelte, un programma prodotto da Davide and Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari quando cinese era sinonimo di raro e prezioso e lette da me quando cinese è sinonimo di dozzinale a buon mercato. D'altra parte, non ogni verde fa fiore e non ogni fiore fa frutto, ossia inguaina d'oro o coltello di piombo. Serio. Capitolo 18. Rigoverni te? In Firenze, per antichissima usanza, si erano sempre mutati i governi col mezzo dei parlamenti. Il popolo, chiamato al suono della campana, si raccoglieva senza armi nella piazza, che era guardata dai fanti armati della signoria, la quale scendeva sulla ringhiera a chiedere balia per sé o per i suoi amici. La balia era una dittatura che si poteva avere per mesi o per anni, poteva rinnovarsi più volte di seguito e dava facoltà di mutare la forma del governo. Allora il popolo veniva di nuovo chiamato a parlamento e, radunato sotto questa menzognera apparenza di libertà, si mostrava sempre docile strumento alle voglie ambiziose dei più potenti e sempre applaudiva ad alta voce le proposte della balia, credendo dare prova della sua indipendenza e libertà nel momento stesso che la distruggeva. Così ne venne quell'antichissimo proverbio fiorentino: chi disse parlamento disse guastamento. Con le balie e coi parlamenti avevano infatti dominato lungamente gli albizi e con essi avevano tiranneggiato i medici. Non di meno, tanta era la forza dell'uso che non furono appena nel 94 partiti i francesi e subito il 2 dicembre la campana di palazzo suonava a parlamento. I fanti della signoria tenevano armati le bocche della piazza e il popolo, tutto fiero di sé, veniva raccolto all'antica. I signori leggevano una provvisione con la quale chiedevano di nominare 20 accoppiatori, con la balia e facoltà di eleggere per un anno la signoria e tutti i principali magistrati e di scegliere a gonfaloniere di giustizia uno di loro medesimi. La moltitudine, quasi furibonda di gioia, applaudiva ad altissime grida e così il nuovo governo, che si chiamò dei Venti, veniva formato. Venendo però al fatto, si vide che le cose seguivano diverse assai da quello che si era disegnato. La Repubblica era nelle mani degli accoppiatori, ma la macchina dello Stato non camminava. Avevano autorità sopra ogni cosa, ma di nulla si trovavano nel fatto padroni. Ai medici, agli albizi o ad altra potente famiglia, circondata da amici, piena di danari e con un nome grandissimo, era stato possibile dominare la città con quegli arbitri. Ma che cosa potevano fare 20 cittadini di pensare, di condizione e d'indole diversissimi, molti dei quali erano nuovi affatto nelle cose di Stato? Malgrado la loro autorità, si trovarono incapaci e deboli a governare, e la principale debolezza nasceva dal non potersi facilmente mettere d'accordo. In questo modo, l'antica usanza dei parlamenti partoriva subito gli antichi disordini, perché ancora non era cominciato il nuovo governo che già tutti pensavano di mutarlo. Ognuno vedeva che era una vana speranza il far rivivere la Repubblica, lasciando intatte quelle vecchie istituzioni da cui i medici avevano tolto ogni residuo di vita. Si cominciava perciò a pensare di rinnovare tutto il governo, ricostituire tutto il popolo, ma quando si veniva alla prova sembrava che il provvedere con efficacia fosse stato tanto più difficile quanto maggiore ne era il bisogno. Da tutti i lati crescevano le difficoltà, moltiplici e inopinate. La ribellione di Pisa diveniva ogni giorno più grave, quivi il pericolo aveva stabilito la concordia degli animi, il governo si era rapidamente costituito, si raccoglievano uomini, armi e danari, i cittadini erano animati da un grande ardore di libertà e di indipendenza. Il resto del territorio fiorentino era tutto malfermo, Arezzo e Montepulciano, incoraggiati dall'esempio di Pisa e dai danari e dai consigli di Siena, ribellavansi ben tosto anch'essi, altri borghi o città s'apparecchiavano a fare lo stesso, quindi in Firenze era la necessità urgente di danari per nutrire tre guerre e pagare le somme promesse al re di Francia, che già chiedeva che gli fossero anticipate. Bisognava assoldare gente, levar fanti nel contado, trovar capitani ed imporre nuove e maggiori gravezze a un popolo già oppressato. A ciò sarebbe difficilmente bastato un governo forte ed unito, e se ne aveva invece uno così debole e incerto che bisognava mutarlo. I cittadini fiorentini avevano d'altronde, nei 60 anni trascorsi, perduta affatto quella loro antica e meravigliosa attitudine politica a formare nuove leggi e nuove istituzioni, onde, trovandosi a un tratto liberi e padroni di sé, erano come smarriti e confusi nella loro stessa libertà. Non v'era più un ordine di ottimati che avesse, come al tempo degli albizi, potuto prendere in mano la direzione della cosa pubblica. Gli agiati cittadini non avevano sotto i medici goduto altro privilegio che quello della loro ricchezza. Con essa e con qualche impiego per favore ottenuto avevano vissuto tutta la loro vita senza esperienza, senza pratica e senza affezione alcuna alle cose di Stato. Il popolo minuto poteva poi dirsi assolutamente disfatto. Quelle antiche capitudini delle arti, che erano state ad un tempo centro della vita industriale e della vita pubblica, officine ove s'erano raccolte quelle straordinarie ricchezze che soccorrevano la patria nelle sue lunghe e difficili guerre, arena politica nella quale entravano a lottare e si educavano quei bravi artigiani che tanto abilmente sapevano poi consigliare la Repubblica e tanto coraggiosamente servirle. Quelle antiche capitudini adunque più non esistevano che di nome. Il popolo viveva perciò sgominato e sciolto. Egli era dunque difficile ordinare un nuovo governo, non solamente perché la guerra consumava la città, perché le antiche istituzioni avevano perduto ogni vita e il popolo ogni educazione politica, ma ancora perché esso era talmente mutato in ogni sua parte che niuna delle antiche forme repubblicane più gli si addiceva. Né solamente mancavano nel popolo le disposizioni più necessarie, ma ancora mancavano affatto gli uomini che potessero guidarlo nella grave e difficile impresa di dare costituzione a se stesso. Noi abbiamo visto nella moltitudine tumultuante sorgere Francesco Valori per guidarla a cacciare i Medici, ma per quanto egli fosse in piazza un uomo impareggiabile, era non pertanto incapace di ascendere nel palazzo, ove con difficoltà sapeva frenare l'impeto delle sue esaltate passioni. Abbiamo visto rendersi immortale Piero Capponi in faccia a re ai generali di Francia, ma anche egli si impazientiva a discorrere lungamente nei consigli. Quando bisognava rompere una discussione per metter mano alla spada, quello era il momento di Piero Capponi, ma stare a discutere, a lottare, a ragionare lungamente col lucco sulle spalle e il cappuccio in testa era cosa che lo annoiava. Si trovava assai meglio con la corazza indosso, esposto al sole, alla pioggia e alle palle nemiche. Egli infatti ora non chiedeva altro che d'essere mandato al campo di Pisa per cominciare la guerra. In un momento, adunque, di tanta necessità non si sapeva veramente vedere in chi si potesse sperare, né era facile il credere che la opportunità dovesse far sorgere uomini nuovi, perché nei 60 anni trascorsi sotto la tirannide niuno s'era educato alla libertà ed ognuno aveva perduta quella pratica delle cose pubbliche che è indispensabile a chi vuol dare nuova forma e nuovo governo a tutto un popolo. Se non che, come tutti i mali, sorge sempre un qualche naturale compenso, così allora in Firenze si era già cominciata a formare quella scuola di politici italiani che più tardi produsse Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini e Donato Giannotti, i quali entravano appena nella loro prima giovinezza, ora che la patria ritornava libera. In quei petti fiorentini era stato così grande l'amore della libertà che dal momento in cui non poterono più entrare a discutere liberamente nei consigli si misero a ragionare dello Stato e crearono la scienza politica. Passando poi dalla teoria alla pratica, l'occhio dei politici fiorentini si volgeva costantemente a Venezia. Di tutti i governi italiani, quello era il solo che fosse sopravvissuto alla generale rovina, il solo che, cresciuto di forza, di potenza e di onore, non avesse ancora veduto sorgere un tiranno. Quindi il desiderio di Firenze e di tutte le spente repubbliche italiane era di poter rinascere nella forma veneziana. Quello sembrava perfettissimo fra tutti i governi. Quando infatti si paragonava la serie interminabile di mutazioni avvenute in Firenze con la eterna e severa quiete della Veneta Laguna, si provava quasi la medesima impressione che proviamo oggi nel paragonare la politica interna di Francia a quella dell'Inghilterra. Ma nel desiderio che i fiorentini avevano allora di trasportare a Firenze la forma del governo veneziano, trovavano quelle medesime difficoltà che incontrerebbero oggi i francesi nel voler adottare la Costituzione inglese. I veneziani avevano sin da tempi remotissimi avuta una forte e potente aristocrazia. Questa non s'era mai vista in Firenze, dove i Medici avevano distrutta perfino quella poca differenza che era stata in origine fra i vari ordini di cittadini, ed uguagliato talmente ogni cosa che ormai ognuno vedeva non esservi possibile altro che o un'assoluta tirannide o un'assoluta libertà. In questa condizione di cose, adunque, tenendosi in disparte gli uomini della scienza come poco pratici e gli uomini d'azione come poco prudenti o poco abili, incominciava a farsi largo un'altra specie di cittadini, e questi erano i dottori di legge, nelle cui mani la fortuna suol mettere quasi sempre il timone dello Stato ogni volta che un popolo passa dalla tirannide alla libertà. Comunque sia di ciò, dopo molto incerto ondeggiare nei consigli che si tenevano in palazzo, predominavano finalmente i pareri di messer Guido Antonio Vespucci e messer Paolo Antonio Soderini, ambedue dottori in legge. Il Soderini era del Partito Popolare e, stato lungamente ambasciatore a Venezia, aveva avuto opportunità di conoscere meglio ad ogni altro la forma di quel governo. Egli proponeva un consiglio maggiore a similitudine del Gran Consiglio di Venezia, nel quale entrasse il popolo per eleggere i magistrati e votare le leggi, ed un consiglio più ristretto di ottimati o uomini di maggiore esperienza, ove si deliberassero quelle cose che in pubblico non si possono discutere. Il Vespucci invece discorreva a lungo contro l'incapacità e gli eccessi della moltitudine, riandava tutte le scene più triste della storia di Firenze, diceva che il Gran Consiglio era a Venezia composto di gentiluomini e non di popolo, il quale non di meno era quivi assai più serio, tranquillo e temperato che a Firenze. A Firenze, ove gli ingegni sono più sottili, le fantasie più vive, le passioni più sfrenate. Rispondevasi dall'altra parte che tanto valeva essere gentiluomo a Venezia quanto cittadino a Firenze, perché a Venezia la plebe non vi aveva cittadinanza, e non essendovi d'altronde un ordine di ottimati, un governo stretto vi riusciva sempre in una tirannide di pochi. Ed infine che, avendo il popolo cacciato i medici, non era giusto escludere dal governo quella parte di cittadini per cui mezzo solamente era si guadagnata la libertà. Su queste cose ragionavasi di continuo in palazzo, ove i consigli sedevano fino a notte assai avanzata. Essendo la discussione venuta nelle mani di due avvocati, superbi della importanza acquistata in quel momento, non era per aver termine assai facilmente. Parlavasi, discutevasi, ciarlavasi quando vi era bisogno di agire, quando il pericolo della guerra era gravissimo, quando tante città del dominio minacciavano sollevarsi, quando l'intero popolo poteva stancarsi di rimanere più a lungo sospeso sui destini del suo avvenire e pigliare le armi per correre a qualche sanguinoso eccesso. Molti erano perciò spaventati, molti confusi in modo che non sapevano che si dire né che si fare. Se i dotti non avevano potuto aiutare il popolo perché la loro dottrina era lontana dal mondo, se non avevano potuto gli uomini d'azione perché ad essi mancava la pratica e l'esperienza della libertà, molto meno potevano aiutarlo i dottori di legge, perché in essi era allora, come è stata sempre, una falsa dottrina e una falsa esperienza. Non vi era che il buon senso, il vero amore del bene, la forte e ardente volontà di farlo che potesse salvare il popolo dalla sua confusione. L'uomo perciò destinato a salvare il popolo di Firenze era il frate Girolamo Savonarola. Suonava l'ora in cui egli doveva entrare nella politica. La necessità delle cose ve lo trascinava inevitabilmente, malgrado la ferma volontà che egli aveva sinora avuta di astenersene. Più volte fu dalla signoria medesima richiesto di consiglio in San Marco ed anche in palazzo, e finalmente il Savonarola volle raccogliere in Duomo tutti i magistrati ed il popolo, escludendone le donne e i fanciulli, e fece un sermone nel quale propose principalmente quattro cose. 1. Il timore di Dio e la riforma dei buoni costumi. 2. L'amore al governo popolare e al pubblico bene, posponendo ogni privata utilità. 3. Una pace universale con la quale si assolvessero gli amici del passato governo da ogni colpa, perdonando anche le pene pecuniarie, e si usasse indulgenza verso tutti i debitori dello Stato. 4. Costituire una forma di governo universale che comprendesse tutti i cittadini ai quali, secondo gli antichi ordini della città, apparteneva lo Stato, e proponeva come più adatta la forma del Consiglio Grande dei Veneziani, accomodandolo però all'indole del popolo fiorentino. Questi consigli, dati sul Pergamo di Santa Maria del Fiore da un frate, dal Savonarola, quando le sue profezie si erano verificate e quando l'incertezza dominava tutti gli animi, ebbero una forza grandissima e fecero decidere la vittoria in favore del Partito Popolare. È opinione unanime di tutti gli storici che, senza quelle prediche, avrebbe vinto in palazzo l'opinione del Vespucci e si sarebbe formato un governo di ottimati che avrebbe dato origine ad altri disordini e nuove rivoluzioni. Ma quando la voce del frate tuonò in favore della libertà, allora niuno potette più resistere. Il popolo, che era stato sinora incerto, senza sapere a quale partito appigliarsi ed ignorando perfino il linguaggio stesso della politica, credette ora di essere chiaro di tutto. Voleva assolutamente il Consiglio Grande al modo veneziano e lo andava gridando per la città. L'autorità divina che il Savonarola mescolava nella politica aveva poi una forza assai grande in tutta Firenze, ove sempre la Repubblica era stata sotto la speciale protezione dei santi e ove sempre la religione e lo Stato si erano uniti a difesa della libertà. E se faceva qualche maraviglia vedere un frate sul Pergamo parlare di politica, questa maraviglia accresceva la sua autorità. E davvero, nel leggere gli storici di quel tempo, nel leggere ciò che più tardi dissero il Giannotti, il Guicciardini e il Machiavelli intorno al governo allora istituito, si direbbe quasi che in Firenze sia avvenuto un miracolo, già che noi vediamo un frate senza nessuna esperienza delle cose del mondo riuscire a confondere i savi, a salvare la patria e a fondare una nuova repubblica. Il Savonarola si trovava ad un tratto divenuto capo di tutta la città e bisognava procedere oltre rapidamente nella formazione del nuovo governo se non si voleva che i molti nemici avessero vittoria. Già Piero dei Medici era corso verso Napoli al campo francese, ove era stato assai bene accolto da quel re Carlo che portava così indegnamente il nome di protettore della libertà fiorentina. Un tiranno era dunque già pronto per tornare in Firenze ad ogni cambiamento di fortuna che vi potesse aver luogo. Bisognava perciò adoperarsi a tutt'uomo per condurre e compiere scrivere la costituzione del governo popolare, farlo unito, forte, potente e rispettato se non si voleva essere vittima di una nuova tirannide.